flauto shinobue è uno strumento della tradizione giapponese, anche se devo dire che si sente forte in questo album l'influenza, un'influenza musicale più moderna, quasi pop, che accompagna il flauto. Thank you.

Kanate ha appena percorso l'antica strada in direzione verso il mare. Thank you. Questo era Tramonto sulla strada di casa, l'ultima traccia di questo album. Kanate è tornato a casa. E insomma, questo era Katsuya Sato col suo flauto Shinobue. È più forte di me spegnere questa radio e quindi vado avanti con una cosa completamente fuori album. Però sempre un po' così coccolosa, tranquillona, forse. Una filastrocca del popolo nativo di Hokkaido, è una filastrocca che è raccontata dalle nanni ai bambini. Yeah, a he manta it is called a heart, he knew the secrets in her heart, it is a way near heart, I way no heart, any okay heart. うらるかんとははちおぽそれははのちおかんとははちおぽそれははいまかけたは死にすかんとは、血をぽそりは、うぴりかぽんぺいは、さんでこなは、うまなたらは、うぺってらしは、ぺたらけは、しろかねとにたいは、おしろかねのやさらは、しろかねすまはん、うわんどえねは、うぺったらけは、こんかねぺろたいは、こんかねのやさらは、こんかねすまは、おかるうえねは、おるおさまは、みけかねは、うぺってらしは、あるぱんあいねは、かねえちせは、ぼろちせあんは、ちせありけは、うえにすぬかは、あいぬえから、ちせありけ、すくすのか、あいぬえから、うろたねすん、らまっからかむい、でほっねしんた、しろろわあて、でほっねしんた、しわとるわあて、えろんねは、しけるきころは、んでほっねしんた、いろんなすえは、えうとんねは、しけるきころ、んでほっねしんた、いろんな Non so quanti di voi conoscono questo personaggio giapponese, ma si riconosce insomma che sono dei suoni strani, no? Effettivamente è un dialetto antichissimo giapponese di Hokkaido. I knew moshi, moshi topkashi,

暗い目をした女優、ミシェル・モルガンの目をもう一つ暗くした女優の目が、若い女を都会へと誘う。暗い目をした女優は思い切りかかとの高いハイヒールを履くのです。コチコチ、大都会のアスファルトを響かせます。若い女の旅は当てとない。暗い目をした女優はどこへ行ってしまったのかしら。いつも見る夢、 combattutissima su come andare avanti, se rimanere sul femminile o sugli anni 70. Vado di psichedelia anni 70. Sullo stesso artista con una traccia di pochi anni dopo, Masterless Samurai. Thank you.

slash the page.